Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 19 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia il riposo del guerriero che come sempre vi invita alle 11.30 a cercare di portarvi a casa il catalogo della mostra di Miró, Poesia e Luce, mostra che trovate a Genova e anche il biglietto d'ingresso, ma se non potete andare a vedere la mostra comunque vi rimarrà il catalogo ed è una gran cosa. E per poterlo avere dovrete cercare di collegare le canzoni che vi farò ascoltare a una delle opere di Miró. Il numero verde per prenotarvi, perché potete prenotarvi già da adesso visto che poi si giocherà alle 11.30. Il numero verde è 800 24 00 24, e questo è l'indizio. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Avete riconosciuto? Questo è Celentano con Una carezza in un pugno, e questo è l'indizio. E non si tratta di indovinare un'opera dell'artista, ma dovete indovinare una tecnica. Una tecnica, una fra le tante usate da Miró per la sua arte, e la tecnica in questione ha a che fare con la canzone che avete ascoltato. Detto questo, partiamo con la puntata di oggi. Riposo del guerriero cercherà di farvi superare i vostri limiti, e anche i nostri, tutti li abbiamo. Sono limiti a volte, anzi molto spesso, legati alla nostra mente, alle nostre paure, alle nostre fobie, alle nostre ossessioni, alla nostra voglia di incasellare magari tutto, e limiti che non ci permettono di vivere nella quotidianità, perché non riusciamo a muoverci come invece vorremmo, invidiando magari gli altri, dicendo ma perché loro ce la fanno e io meno. Insomma, oggi cercheremo di superare questi limiti, a vedere magari domani una vita diversa da quella che abbiamo avuto fino ad oggi. Almeno ci proviamo con il riposo del guerriero e con tanti ospiti che ci sono. Vi do anche il numero per i vostri messaggi: 349 238 6666, la nostra pagina di Facebook Il riposo del guerriero, e ovviamente una canzone per iniziare la puntata. Non ti insegnerò quello che già sai. Io scommetto che li straccerai. Il maestro è qua, ti benedirà, può esibirti, sbizzarrirti, è il momento tuo, lanciati così, butta fuori il meglio adesso, sì, l'anima ce l'hai, conta su di lei, puoi sfidare il mondo adesso o mai. La mia vita scorre mentre guardo te, quella voglia di riscatto so cos'è, e nessuno può comprenderti di più. Nessun altro prova ciò che provi tu. Io ti guardo e sento che puoi farcela. Maledetta sorte, puoi sconfiggerla. Non ti lascerò senza alibi, io no. Punta in alto, credi a me. Guarda avanti. Ho voluto iniziare con Renato Zero, con il maestro, perché in qualche modo, insomma, le cose si devono trasferire, le cose che si riescono a scoprire grazie alla vita che si conduce E poi è bello poterle trasferire agli altri. Così ha fatto Lucia Giovannini, che saluto. Ciao Lucia, buongiorno. Ciao Stefano e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Finalmente ci vediamo, perché ti abbiamo avuta ospite un po' di volte al telefono, ma mai fisicamente. Oggi sei qui e finalmente sei qui, come recita il libro scritto da un amico, pubblicato anche da poco. E allora, tu sei scrittrice, hai pubblicato tantissimi volumoni e volumetti, perché le dimensioni sono tante, secondo l'argomento, e tendenzialmente tutti i libri che insegnano o aiutano a capire la vita. Tu ti definisci life coach, che possiamo tradurre come insegnante di vita, non so, così. Sì, sì, come insegnante di vita, come allenatrice per aiutarci a tirare fuori la nostra parte migliore e a vivere una vita migliore. Ecco, mi piace di più in quello che hai detto, quindi non insegnante ma allenatrice, è sì, meglio. Sì, sì. Insegnare sembra sempre mettersi in alto e gli altri sono in basso, invece non è assolutamente infatti, così. Infatti, invece in realtà è proprio quella dell'allenare ognuno a tirare fuori la parte migliore, non tanto essere migliore degli altri, che chi se ne frega, ma a tirare fuori la parte migliore di se stessi. Ecco, abbiamo 4 secondi prima di dare la pubblicità. Allora, mi hai fatto in mente una domanda. Tu dici non tanto essere migliori degli altri, perché chi se ne frega. Sto pensando che ormai la maggioranza dei programmi televisivi invece insegnano esattamente l'opposto, cioè essere migliori degli altri. E quindi da che parte dobbiamo andare in realtà? Visto che abbiamo un media che ci insegna e ci in qualche modo obbliga a scegliere una strada di essere migliori, più bravi degli altri. E invece poi la vita forse ci dice che dobbiamo invece non considerare questo aspetto ma altri. Sì, e noi siamo sempre liberi di scegliere se, come dire, ascoltare i media o decidere per noi stessi, nel senso che dal mio punto di vista focalizzarci sugli altri ci porta solo un grande stress, perché ognuno di noi ha talenti e abilità uniche, diverse dagli altri. E quindi è come se una rosa si paragonasse a un giglio e dicesse perché io ho tante spine e lui no, o un pesce si arrabbiasse perché non riesce a volare come un uccello come perché non riesce a nuotare. Quindi l'idea è di tirare fuori le nostre potenzialità e usarle al meglio. Ecco, in barba agli altri, di cui non ci interessa molto, se non avere una relazione, perché poi sì, nel certo, senso che la nostra vita comunque si relaziona per forza con gli altri. Di questo parleremo di cercare di superare i nostri limiti, che sono tanti e anche quotidiani, e non ce ne accorgiamo, anche quando ci sembra di essere perfetti in realtà non lo siamo mai, e oggi vedremo quanto non lo siamo. Gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Allora Lucia, tu hai appena pubblicato l'ultimo libro, si intitola Crea il lavoro che vuoi. E sarebbe bello. Certo, però l'idea è che io ho fatto un po' di conti e di sì, media, proprio pensando a le 8 ore lavorative, 5 giorni alla settimana, usiamo circa 61.800 ore della nostra vita al lavoro, proprio stando stretti. E quindi mi chiedo come vogliamo usare queste ore, perché sono ore importanti della nostra vita, e se al lavoro stiamo male, siamo stressati, frustrati, sono ore della nostra vita che spendiamo in quella maniera. Quindi non si tratta necessariamente per forza di cambiare lavoro, ma l'idea almeno è di trovare piacere in cose che facciamo nel nostro lavoro, e se proprio non ci riusciamo, allora forse è ora di pensare di creare un nuovo lavoro. Ecco, Lucia, quando si parla di queste cose ovviamente poi ci si scontra con la realtà della quotidianità, no? Si dice vabbè, sì, è facile parlare, poi però in pratica io sono costretto ad andare in ufficio tutti i giorni, vedere quelle persone lì, i miei capi sono questi, eccetera, per cui è facile parlare, ma poi fare praticamente è impossibile. Perché, beh, è impossibile. Io ho tanti esempi anche di persone che vengono ai miei corsi che ce l'hanno fatta e che ce la stanno facendo, nel senso che appunto noi siamo sempre noi che possiamo scegliere cosa fare della nostra vita. Molto spesso crediamo che ci siano delle forze che agiscono, ma noi abbiamo la possibilità di scegliere, oserei dire abbiamo il potere di scegliere cosa pensare, come sentirci, come agire, cosa dire, cosa non dire, molto più di quello che pensiamo. Cos'è che ci blocca? A parte i soldi, uno dice perdo il lavoro, e poi e questa è una realtà pratica per cui uno deve fare una scelta, dice non posso permettermi di fare un salto nel buio, per esempio. Sì, e può succedere. Allo stesso tempo io ho esempi appunto stesse di persone che sono venute ai corsi che hanno fatto questo salto nel buio. Beh, io stessa tanti anni fa, è vero, però ho fatto questo salto nel buio e alla fine sono felicissima di averlo fatto, come dire. Quindi anche i soldi, è vero, i soldi sono importanti, per carità, non lo nego, ma non sono un fine, i soldi sono un mezzo. mezzo. Non possiamo pensare che sia l'unico motivo per cui lavoriamo siano i soldi, perché sennò rischiamo di non essere veramente felici nel nostro lavoro. Quindi questo è un aspetto. L'altra cosa che ci blocca molto spesso sono proprio i nostri condizionamenti. Quali sono quelli che più spesso trovi nelle persone in generale? Quali sono i condizionamenti che... Non poter cambiare, di non avere le capacità per farlo, e poi che cosa succede? Quindi la paura del rischiare in generale, se dovessi definirla. La paura del rischiare, come se fuori dalla propria zona di comfort ci fossero gli squali, non so come dire, rischiassimo chissà che cosa. Quindi tendenzialmente noi cerchiamo di vivere una vita protetta, sì, dove niente possa entrare e niente deve uscire, però appunto se niente deve uscire niente può entrare e quindi quello forse è un problema. Sì, no? Finiamo per chiuderci in una prigione, magari anche tra virgolette dorata, a volte non è nemmeno dorata peraltro, ma anche se questa prigione fosse dorata, quindi voglio dire magari abbiamo un lavoro sicuro o una relazione, la verità è che la vita non è sicura in sé, nel senso che per vivere abbiamo bisogno di aprirci al rischio. E quindi quando invece facciamo di tutto per evitare questo rischio finiamo per immobilizzarci. Da dove possiamo partire? Ma magari anche solo dal cambiare piccole abitudini. Perché noi siamo esseri umani siamo assolutamente abitudinari, pensate anche solo, non so, al posto a tavola, no? È sempre... Ma ci diamo delle regole che ci piacciono perché ci danno sicurezza. Esatto, esattamente. Quindi così. L'idea invece è di sentirsi al sicuro anche al di fuori delle nostre regole quotidiane, che io chiamo la nostra zona di comfort, che in realtà forse sarebbe più corretto dire la zona di discomfort. Sì, perché poi la regola stessa ci obbliga e ci limita, ovviamente, non ci fa sentire sereni. Perché il momento in cui pensiamo di cambiarla, chissà cosa accadrà, e scopriamo poi che non accade niente. Il problema è che a volte cambiando la regola poi capita proprio quello che pensavamo potesse capitare e poi da lì ci spaventiamo a morte. E infatti però molto spesso ci spaventiamo, siamo noi con i nostri pensieri a terrorizzarci, perché anche se capita quello che noi temiamo così tanto, che cosa succede in realtà? Niente, è vero, traduco la faccia di Lucia in questo momento. Io vi ricordo il numero per i messaggi, 349-238-6666 per le domande che vorrete porre ai nostri ospiti, a Lucia sicuramente, anche a Simona Raimondi che saluto. Ciao Simona, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buona domenica Simona, che è psicologa. E noi abbiamo cominciato parlando di lavoro, anche perché appunto il libro è Crea il lavoro che vuoi, l'ultimo pubblicato per Sperling da Lucia Giovannini, perché insomma il lavoro è uno dei luoghi dove ci riteniamo di essere più stressati in assoluto, mi sbaglio Simona? No, è vero, è proprio vero, è proprio uno dei luoghi dove imputiamo il nostro stress proprio al lavoro, perché come dice giustamente Lucia è una parte importante della nostra vita, che tra l'altro ha anche un peso significativo in termini quantitativi di tempo che spendiamo sul lavoro, quindi è proprio così. Spesse volte imputiamo proprio al lavoro, al nostro malessere sul lavoro, la causa di tutti i nostri mali. Che poi si scarica automaticamente tutto il resto, sulla famiglia, sugli affetti, e questo purtroppo è un meccanismo costante. E anche a te domando questo, da dove partiamo Simona? Ma partiamo da una considerazione, innanzitutto mi premerebbe distinguere fra due tipi di stress sul lavoro. Facciamo una differenziazione abbastanza semplicistica, poi semplice non lo è affatto chiaramente, fra uno stress positivo e uno stress negativo. Il primo, che io chiamo stress positivo, può essere un fattore benefico nella nostra vita, perché è quello che ci spinge a fare di più, a fare meglio, a cercare anche di superare i nostri limiti, perché si pone come uno stimolo, quindi ci fa spingere sull'acceleratore. Ci sono delle persone che ho incontrato e che mi dicono: io lavoro bene solo sotto stress, solo se sono sotto pressione. Invece c'è poi quello più comune che conosciamo tutti, quello negativo, che invece è una forma di disagio che anziché stimolarci ci paralizza, e quindi c'è questo malessere fisico che molte volte nasconde anche un malessere psicologico molto molto profondo, e le cause qui possono essere tantissime. Se parliamo di ambiente di lavoro, proprio il clima di lavoro, ad esempio un rapporto con i colleghi distorto, un capo che è veramente pressante. Oggi poi più che mai, come giustamente osservavi prima, con questi tagli che ci sono anche nel mondo del lavoro, spesso lo stress professionale si intreccia con quello personale. Se perdiamo il posto di lavoro, visto che è così importante per noi, no? Non solo dal punto di vista economico, ma anche di gratificazione personale, a questo punto possiamo capire come lo stress si ripercuota anche sulla vita privata in modo significativo. Ecco, Simona, nel momento in cui abbiamo dei rapporti difficili con i colleghi, come possiamo cominciare a fare qualcosa per noi? Lo dico perché con i colleghi hai a che fare quotidianamente, no? Per cui è difficile, non è che puoi prendere... È una storia d'amore, per esempio, se si interrompe, pur con grande dolore, decidi di interrompere. I colleghi non puoi dire voi state a casa, io resto, è più difficile. Sì, sì, è sicuramente più difficile. Anche qui le situazioni possono essere molteplici, sicuramente... un rapporto coi colleghi che non funziona, quindi un rapporto d'amore che non sboccia, non solo coi colleghi ma anche con l'azienda in sé, con un capo. Sicuramente questa situazione di disagio ci porta a ritirarci in quella che anche Lucia chiama la zona di comfort, uno spazio cioè dove le persone stanno bene, si sentono sicure, quindi abbiamo dei comportamenti dove ad esempio ci limitiamo a fare quello che sappiamo fare bene o intratteniamo rapporti solo con colleghi con cui abbiamo più affinità, che va anche bene perché abbiamo tutta una serie anche di difese che mettiamo in atto, però c'è anche il lato negativo, e cioè si perde la motivazione, si perde l'entusiasmo, si perde anche la voglia di stare insieme agli altri, no? Quindi la difficoltà più grossa proprio è quella di uscire dalla zona di comfort, mantenere un atteggiamento positivo senza pensare che poi comunque va tutto male, perché alla fine è una situazione che o cambiamo lavoro o dobbiamo accettare. E quindi, cosa possiamo fare praticamente? Ecco. Ma cambiare innanzitutto il nostro atteggiamento, provare a uscire da quella gabbia che ci siamo autocostruiti. Molte volte sul lavoro il limite che noi abbiamo è un limite che ci autocreiamo, un po' sui pregiudizi, quindi ad esempio non mi va quel collega, ma può essere anche una non conoscenza, quindi comunicando di più. Ci sono ad esempio delle tecniche sia individuali che di gruppo molto utili per scaricare la tensione, esercizi di rilassamento, di respirazione, ma anche nel lavoro con le aziende, ad esempio dei corsi di formazione o degli outdoor training, proprio sul come migliorare l'ambiente, comunicare di più, costruire il gruppo, conoscersi, superare quelli che possono essere i pregiudizi verso l'altro. Ecco, di questo infatti poi parleremo tra pochissimo con un altro ospite. È chiaro, io lo ripeto sempre, faccio un po' l'avvocato del diavolo, no? Perché Simona, come dicevo anche a Lucia, è molto facile, tra virgolette, raccontare queste cose, anche prenderne coscienza, perché poi ne siamo coscienti, non è che non siamo stupidi, lo capiamo. Però poi metterle in pratica è molto difficile, e noi cercheremo di darvi gli strumenti per provare a farlo oggi, ma non vorrei cercare di farlo. E io ti lascio, Simona, con una domanda che poi replico anche a Lucia, e arriva anche con un commento di un ascoltatore. Io prima Lucia dice degli altri freghiamocene, malgrado sia un momento in cui la competitività sia costantemente sotto gli occhi di tutti, dicevo, i programmi televisivi ormai sono solo programmi di competizione. E invece Lucia dice no, proviamo a pensare a noi e freghiamocene di essere migliori degli altri, perché non ha senso. Un ascoltatore scrive, avete fatto un esempio errato, la competitività esiste in quanto siamo simili. E tu sulla competitività, Simona, cosa dici? È vero, la competitività è innata, noi siamo simili e quindi è innato voler primeggiare, voler essere migliori degli altri. Questo sicuramente da un certo punto di vista fa anche bene, perché ci aiuta a superare i nostri limiti, ad esempio se penso a uno sviluppo individuale, no? Quindi voglio crescere, voglio essere migliore di, e quindi mi sforzo per raggiungere questo obiettivo. Di contro diventa anche un limite, tante volte può portarci veramente a rinchiuderci invece in una sorta di ossessione, voglio essere meglio di, e quindi mi creo un'ansia da prestazione che alla fine va a rovinare la mia vita quotidiana. Quindi bisogna, ecco, un po' dosare questa competitività. Ecco, magari poi la comunità nasce con qualcuno che non ci piace, e quindi poi lì scattano meccanismi anche molto più complessi. Grazie Simona Raimondi, buona domenica. Grazie, buona domenica. Lucia, torniamo su questo aspetto della competitività che ci stressa. Sì, io penso che esattamente come ha detto Simona, l'aspetto positivo, se vogliamo, non so se va bene, chiamiamola anche competitività, è l'idea di che cosa posso fare meglio, ok? Quindi se c'è qualcuno che ha fatto qualcosa che mi piace, ok, forse lo posso fare anch'io, come lo posso fare, magari alla mia maniera anziché alla sua maniera, no? E questo è l'aspetto positivo. Di contro, l'altra parte è proprio quella di iniziare a focalizzarci solo sugli altri, fare diventare questo un'ossessione, aumentare lo stress e soprattutto scordarci dei nostri doni, scordarci delle nostre potenzialità e dei nostri talenti e cercare di fare le cose, imitare quasi gli altri e scordare chi siamo noi. Ecco, però spesso questi talenti, quando siamo insicuri e stressati, non li sappiamo vedere, non li riteniamo tali. E infatti è proprio questo, e così chiudiamo la porta ai nostri talenti anziché nutrirli. Cerchiamo di farli emergere invece. Daniele, buona domenica, ciao. Buongiorno, certo, sì, buongiorno Stefano, Daniele. Eccoci qua. Allora, Daniele Elti costruisce team building in giro per l'Italia, perché alcune aziende un po' più illuminate o che possono farlo cercano di fare in modo che le persone che lavorano per quell'azienda possano superare appunto i limiti. Dico bene, Daniele? Sì, diciamo abbastanza bene. Allora dillo tu, dillo meglio tu. No, nel senso che in Italia questa cultura c'è abbastanza da poco e ci stiamo lavorando. E purtroppo, come tante cose, c'è molta disinformazione, molta approssimazione, quindi ci sono stati tanti formatori, società di formazione che si sono improvvisate e buttate nel mercato facendo un po' di danni. Però ci sono anche molte persone estremamente valide che stanno cercando di portare avanti il discorso con serietà e quindi... Ecco, allora, un team building in cosa consiste, parlando di un vero team building? Qual è l'obiettivo che si prefigge? Allora, noi abbiamo la presunzione, comunque la voglia, l'obiettivo di accendere delle lampadine. Quando facciamo formazione con gli adulti non abbiamo la presunzione di insegnare nulla. Sì. È impossibile prendere un dirigente d'azienda che da 30 anni in azienda... arriva una persona e gli dice quello che deve fare e come lo deve fare, questo non esiste. Parliamo quindi di più di autoeducazione. Con le nostre attività di team building cerchiamo di mettere in evidenza dei comportamenti, delle dinamiche, facendo rendere conto alle persone che si comportano in quel modo. E questa tecnica, con delle metafore, con degli esempi, cerchiamo di appunto far accendere delle lampadine, far ragionare le persone, mandarle via dall'evento che dura un giorno e mezzo, due giorni, con delle riflessioni in mente che gli creino un momento di crescita personale. Ecco, perché durante un team building che cosa succede praticamente? Spesso, per esempio, accadono cose inaspettate per chi vive il team building e soprattutto si trova a dover a volte fare qualcosa che pensava impossibile da compiere fino al giorno prima. Sì, questo è proprio la parte cruciale un po' del mio ruolo. Io non sono un formatore, ma mi occupo proprio dell'attività esperienziale in sé. Io non credo più di tanto nelle attività che stressino troppo le persone. Faccio degli esempi che possono essere il firewalking, camminare sul fuoco piuttosto che spezzare la freccia, no, col collo. Quelle sono attività estremamente che richiedono una motivazione estrema personale. Non ritengo che sia giusto far fare quel tipo di attività di team building a dei dipendenti di un'azienda che vengono mandati fare quelle attività. Certo. Credo che debba venire dalla propria persona. Le attività che noi proponiamo e che secondo me sono valide sono attività in realtà fattibili da tutti. L'attività e la metafora del teatro è una cosa meravigliosa. Ne parleremo infatti poi. Sì, certo. Immagino. Sì. Oppure per esempio... Scusami, sono interrotto. A parte il teatro, un'altra delle attività che fate particolarmente hard, tra virgolette, cioè apparentemente invalicabile, che invece poi trova piacere da parte di chi pratica questo team building, qual è? È il classico outdoor training fatto con attività sugli alberi, attività sulle corde, il classico ponte tibetano che... No, c'era anche il film famoso di... Ecco, quindi sentirsi degli Indiana Jones per un giorno e cercare di mettere a frutto queste proprie capacità che non si pensava di avere e che poi invece emergono. Senti, alla fine delle giornate di team building, la domanda è ovvia, mi risponderai di sì, però volevo un esempio, la domanda è, alla fine la gente si sente un miglioramento di sé, cioè ha una presa di coscienza in questo senso? Che riscontri hai? Non so se hai un aneddoto in questo senso da raccontarci. Allora, ti direi una cosa diversa, ti rispondo. Sì. Io lavoro con tante società di formazione e tanti formatori diversi, e al di là dell'attività che organizzo io, come viene gestita l'attività cambia radicalmente il risultato finale. Sì. Ci sono alcune circostanze in cui i partecipanti sono contentissimi, sono felici, hanno qualcosa di buono e ti ringraziano quando vanno via, quindi hanno acquisito. Ci sono tante volte che questo non succede, perché in realtà è facile scadere nel banale con queste attività, riportandola all'attività aziendale. Non è facile, il ruolo del formatore è estremamente delicato e importante, e purtroppo, come dicevo all'inizio, spesso viene un po' così, viene meno l'effetto. Sì, c'è un po' di improvvisazione, dici, e quindi poca competenza da quel punto di vista. Daniele Elti, ti ringrazio molto, buona domenica, grazie. Ciao. Buona giornata. Ciao Lucia, tu ti vedevo concorde e annuivi. Oggi stai annuendo a tutto quello che stai ascoltando, mi fa piacere. Beh, sì, è interessante vedere, insomma, ascoltare anche altre esperienze, perché anch'io ovviamente mi occupo di formazione e spesso anche, insomma, con outdoor o altri tipi o corsi di respirazione, insomma, queste cose un po' particolari. E devo dire che sì, è importante tantissimo la relazione e come viene fatto in aula il lavoro con il formatore. E la cosa su cui appunto annuivo era questa presa di coscienza, la consapevolezza, perché la consapevolezza è la prima porta del cambiamento. Cercheremo di fare poi, di darvi qualche esercizio, lo possiamo fare ai nostri ascoltatori, vedremo di aiutarli, chi volesse, insomma, provare ad aprire queste maledette porte. Siamo un po' in ritardo, c'è la pubblicità. Il riposo del guerriero. E arrivano anche i vostri messaggi al 349-238-6666, anche su Facebook, grazie. E io comincio con una storia. Mi chiamo Francesco e volevo portare la mia testimonianza. Ho lasciato un lavoro abbastanza sicuro per mettermi in proprio. È molto dura, ma almeno adesso sono felice. Ah, vabbè. Che meraviglia. Questo è vero, perché uno fa un cambiamento e con il salto nel buio è sempre pesante. Poi però... Allora, invece c'è Alvito, che non ho capito se scrive un messaggio ironico o meno, però dice: io vorrei iniziare con cambiare l'automobile. Lucia ha qualche consiglio? Sì, allora posso prendere spunto da questa domanda, spunto da questo. Okay, per parlare in generale del fatto che l'automobile, come non so, i vestiti, come il nostro posto a tavola, sono veramente quelle piccole abitudini, parlavamo prima della zona di comfort, no? Che creano la nostra zona di comfort, per cui abbiamo l'idea che non possiamo uscire da lì. E che lì, finché stiamo lì, siamo al sicuro, e quando usciamo da lì, ci sono gli orchi. Chissà cosa succede. In realtà, appunto, il cambiamento passa, dicevamo prima, attraverso la consapevolezza di vivere in questa sorta di prigione, e con la volontà e la motivazione per uscirne. E quindi anche solo simbolicamente, perché poi... la nostra psiche comunica per simboli, quindi anche simbolicamente iniziare a fare dei piccoli cambiamenti, per cui cambiare la macchina va benissimo, e magari se abbiamo sempre cambiato, ogni volta che cambiavamo la macchina siamo andati in 3.000 concessionari, abbiamo preso tutti i dati possibili, facciamolo una volta invece in maniera diversa, no? Cambiamo per intuito. Quello che consideriamo il colpo di testa. Esatto, ecco. Facciamo un colpo di testa, facciamo una cosa di... o viceversa, se l'abbiamo sempre fatto così, facciamolo prendendo dati, piuttosto che, non so, cambiamo il benedetto armadietto in palestra una volta, no? Anziché andare sempre in quello. Cambiamo il posto a tavola, quindi iniziamo, cambiamo la strada che facciamo per andare al lavoro, cambiamo la colazione che facciamo, iniziamo ad aprirci al cambiamento e a comunicare a noi stessi e al nostro inconscio che anche quando siamo nel cambiamento siamo al sicuro. Ecco, avevi disegnato una cosa sul lavoro che volevi raccontarci. Sì, una cosa sul lavoro, perché parlavamo prima del creare il lavoro che vuoi e del fatto appunto di come cambiamo lavoro. Una delle, io credo che siano molto importanti le domande chiave che facciamo a noi stessi, no? E una domanda che noi abbiamo nel retro della nostra mente spesso quando cerchiamo lavoro è: che cosa posso ottenere da questo lavoro? Quindi qual è lo stipendio, quali sono i benefit, eccetera. E anche lì è una domanda che rinchiude un pochino, no? In una gabbia. Un'altra domanda viceversa è: che cosa posso dare? Che cosa posso offrire? Che cosa posso offrire io a questa azienda? Che cosa posso offrire io a questo gruppo di lavoro? Che cosa posso offrire io a questo progetto? Come posso aggiungere valore? Perché quando usiamo i nostri talenti e le nostre passioni per aggiungere valore al mercato, lì creiamo un business di successo, lì portiamo più valore e diventiamo insostituibili all'interno di un'azienda. Quindi anche nel nostro piccolo della quotidianità, per esempio. Certo, noi pensiamo molto spesso: ma che differenza posso fare io? Non è vero, ognuno di noi può fare un'enorme differenza. Bisogna far anche capire agli altri. Sì, dobbiamo ma prima capirla noi. Se non la capiamo noi, come possiamo comunicarla agli altri? Giorgio Centamore, ciao, buona domenica. Ciao, eccomi qua, saluti a tutti. Allora, Giorgio è un comico sicuramente, però è anche un grande esperto di improvvisazione teatrale. L'improvvisazione teatrale aiuta a superare determinate paure. Sì, sì, sì. L'improvvisazione teatrale è si fa parte che è la base di ogni tecnica, si utilizza molto in tutti i corsi teatrali, ma io ho lavorato con gruppi che ne hanno fatto il loro strumento principale. E organizzavano e organizziamo e organizzano corsi dove tutti si iscrivono, tanti si iscrivono non tanto per far l'attore, ma anche per appunto vincere delle paure o aver più coscienza di sé, esserci, essere presenti e riuscire a superare qualsiasi situazione senza dover avere appunto degli schemi già prefissati. Anzi, io sconsiglio proprio di far l'attore in generale, no? Perché bravo anch'io. Questo è il mestiere, un meraviglioso mestiere, ma ahimè, quello è proprio un salto nel buio costante, cioè proprio senza rete, dove si cade e si precipita sempre. Ma a parte questo, Giorgio, cos'è che si può, cosa succede sul palco e cosa si riesce a portare a casa? Cosa succede sul palco è che ci si trova appunto senza rete, a non sapere dove si andrà a parare, e quindi ci si trova in una situazione di emergenza da risolvere. Questa situazione di emergenza si impara a gestirla, ad assimilarla, per cui a sapere esattamente come uscirne. Le prime volte chiaramente ti porta a un panico totale, perché dici: riuscirò, dove andrò a finire, cosa farò? Quando cominci a acquisire delle tecniche o comunque una tranquillità, una sicurezza che ti appunto ti insegna a saper procedere senza timore in qualsiasi direzione, hai capito che hai vinto, hai assimilato questa capacità di improvvisare che appunto ti porta a superare qualsiasi situazione affine, tipo devi fare un discorso in pubblico, ti trovi con un discorso da risolvere tipo questo, no? Interviste radio, sì. Dove ti chiedono qualunque cosa, non sai la domanda, chiaramente. Ecco, esatto, ecco, esatto. Dovete, questo lo dico agli ascoltatori in generale, dovete sapere che io tendenzialmente non amo fare le domande prima agli ospiti. Alcuni ospiti vogliono addirittura le domande scritte, è una cosa che di solito mi rifiuto di fare. E sicuramente do l'argomento, cioè dico la discussione verterà su queste cose, indicativamente le domande saranno un po' queste, anche se non sono quelle precise, però non amo molto darle perché io amo l'improvvisazione in generale, chiaramente contenuta in un contesto, questo è ovvio. Certo. Però perché è così che esce l'anima, secondo me, ecco, degli ospiti e di tutte le persone che fanno parte di una trasmissione. Inevitabilmente devi essere anche più diretto, sincero, autentico. E meno costruito. Adesso io ti chiederò di farci qualche esempio, Giorgio, ci do gli aggiornamenti sul traffico e poi ti chiederò di farci qualche esempio per far capire agli ascoltatori che non hanno mai fatto che cosa succede praticamente nel momento in cui qualcuno decidesse di fare un corso di improvvisazione teatrale. Il riposo del guerriero. Stanno arrivando moltissimi messaggi, alcuni li capisco, qualcuno polemico, qualcuno con delle domande, cercheremo di rispondere a tutti, non sarà facile. Giorgio, ecco, ti chiedevo, Giorgio Centamore, ci fai un esempio di improvvisazione teatrale, cosa chiedi ai tuoi allievi? Allora, io vi faccio questo esempio per capire dove com'è questo processo. Sì. Si insegna ad avere un'apertura mentale, una disponibilità nella costruzione, nella creazione, nell'invenzione. Ovvero, per esempio, andando random così, le prime cose che mi vengono in mente: non si devono dar mai delle negazioni quando si va a costruire, a inventare. Mai negare delle cose, se ti vengono proposte non bisogna mai dire dei no. ma anzi è molto più interessante costruire da qualcosa che è lontanissimo dal percorso che vuoi fare, perché ti costringe tra l'altro a inventare sicuramente qualcosa di divertente, di creativo, di interessante. Per cui se ti viene proposta una cosa, mai dire no. Se hai davanti, se stai improvvisando con un'altra persona che ti dice vuoi fare la tal cosa, mai dire no perché sto facendo l'altra, ma secondarlo e creare per arrivarci, piuttosto che ecco, adesso vedi. Non ti vengono in mente? No, bisogna, esatto, ci si impantana in in argomentazioni, cioè non saprei dove andare a parare adesso, non so come andare avanti. Ecco, beh, allora ti aiuto io semplicemente. Un ascoltatore scrive: queste persone che insegnano teorie di superamento, ma hanno sperimentato ciò che intendono insegnare? Punto di domanda. Certo che sì. No, nel mio caso almeno. Ma no, ma questa è la tua risposta con la risata, è molto chiara. E Lucia, scusa. Beh, certo, nessuno può insegnare ciò che non ha fatto, la strada che non ha percorso. Cioè, perché tutto penso che nasca da una strada propria, è la cosa che dicevo all'inizio della puntata, cioè il bello di questo è poter cercare di trasferire agli altri ciò che si è provato su di sé, dico bene Giorgio? Assolutamente. Ti dico, poi vabbè, in altri campi non lo so, nel mio sicuramente, so che c'è un vecchio detto che dice che chi insegna, perché sai com'è la vecchia storia, dice ma quelli bravi fanno, quelli che non sono capaci insegnano. In realtà, almeno per quanto mi riguarda, nel gruppo di persone che frequento, è una cosa che nasce assolutamente sull'esperienza. Anzi, io non avrei mai pensato di insegnare quel poco che l'ho fatto, perché mi è stato richiesto da gente che mi diceva: con la tua esperienza avrai qualcosa da raccontare. Infatti, che è la cosa più bella. Giorgio, ti lascio con un'ultima domanda. Hai visto dei cambiamenti delle persone che hanno frequentato i corsi di improvvisazione, che sono veramente cambiati in qualche modo? Assolutamente sì. Secondo me aiuta proprio. Io ho visto gente aprirsi, a gente arricchire, gente proprio, non so, diventare, tirar fuori una nuova luce, ecco, ma anche loro te lo dicono: finalmente riesco a buttarmi alla rinfusa senza timori e senza acquisire una sicurezza di sé che prima assolutamente non c'era. Certo. Parleremo anche di fobie e di paure da questo punto di vista. Grazie Giorgio Centamore, ma ci risentiremo anche presto. Buona domenica. Grazie. Ciao. A voi. Lui non lo sa, ma io invece lo so già, perché so già cosa farò nelle prossime puntate. Lucia, una domanda, un'altra, un messaggio. Mio marito, se mi siedo al suo posto a tavola, impazzisce. Guarda, ti racconto questa cosa, sì, perché è buffissima. Ho fatto un corso per una banca e ho fatto fare questo esercizio, era un corso di 2 giorni. Alla fine della prima giornata ho chiesto: tornate a casa, cambiate qualcosa, e uno appunto di questi dirigenti ha cambiato il posto a tavola, e tornato il giorno dopo mi ha raccontato: ma hai fatto quasi separare con mia moglie, perché quando ho cambiato il posto a tavola mia moglie ha iniziato a dire: ecco, cambi il posto a tavola, finirai per voler cambiare moglie, finirai per voler cambiare vita. Questo per dire quanto il cambiamento in sé ci fa paura, quando in realtà era solo un cambiare il posto a tavola. E questo proprio ci riporta alla consapevolezza invece di quanto è importante aprirci al cambiamento per sentirci al sicuro nel cambiamento. Ho notato che molte donne cambiano il taglio dei capelli quando intendono, sì, interrompere una relazione. Prima passano da lì. Sì, ma molto spesso quando abbiamo bisogno di fare un cambio interiore, in realtà lo proiettiamo all'esterno, quindi cambiamo arredamento, cambiamo il taglio di capelli, cambiamo cose fuori di noi, quando invece abbiamo bisogno di cambiare cose dentro. Ecco, ma noi. Poi arrivano le cose dentro, partendo da lì o no? O soltanto... Non necessariamente potrebbero, come potrebbe invece potremmo continuare a cambiare all'esterno senza poi portarlo dentro questo cambiamento. Cos'è la cosa più difficile? Ma io credo accettare che la vita è rischio in sé, accettare che non abbiamo garanzie, potremmo esserci domani o potremmo non esserci, quindi accettare questa impermanenza. Secondo te questo momento storico così difficile e proprio che dà incertezza da tutti i punti di vista, in realtà può aiutarci da questo punto di vista, perché per forza di volenti o nolenti dobbiamo accettarlo. Per me sì, io personalmente credo, e questa è una mia credenza, credo che la vita sia un continuo processo verso la nostra evoluzione, proprio a livello sociale. Quindi credo che sta a noi prendere questo momento storico? Lo possiamo prendere come una tragedia, come qualcosa di assolutamente terribile, o possiamo prenderlo come una spinta all'evoluzione, al cambiamento, a tirare fuori qualcosa di nuovo? Senti, a parte Elena dice, scrive: ho fatto il teatro amatoriale da giovane, la cosa mi è servita agli esami all'università, perché lì devi buttare fuori, devi improvvisare proprio, non è facile assolutamente. Infatti l'ansia anche quando si viene intervistati c'è, non c'è niente da fare. Anch'io quando faccio, a parte l'ansia di chi sta da questa parte del microfono, no? E fare le domande non è mai semplice, devi cercare di fare delle domande che sono quelle che gli ascoltatori potrebbero fare, e agganciarti ai discorsi eccetera. È anche vero che quando passi dall'altra parte, quindi io sono l'intervistato, e lì scatta un'ansia completamente diversa. saprò rispondere, la famosa ansia da prestazione. E quindi è vero che bisogna imparare a improvvisare, è proprio importante. Silvia scrive anche: ma quando la vita non ti sorride in niente, non ti sorride nel lavoro, nella vita personale, ma come si fa a cambiare tutto senza incorrere nel rischio di distruggere quel poco che si è costruito? Quel poco che si è costruito è lì. Allora l'idea è di partire da quello che c'è, innanzitutto il fatto di essere vivi. Quindi trovare, diventare grati anche per le piccolissime cose che ci sono, e la prima che appunto tutti abbiamo in comune, di essere vivi, di notare anche proprio con la lente di ingrandimento le cose buone che ci sono e partire da lì e fare in modo che quelle riscaldino i nostri cuori in qualche modo. E poi iniziare a chiederci che cosa vogliamo, che cosa voglio veramente nella mia vita, che cosa amo, che cosa mi piace fare. A livello lavorativo una buona domanda è anche proprio chiedersi che cosa farei anche se non fossi pagata, perché lì ci sono i nostri talenti. E poi fare un piccolo piano d'azione quotidiano, sapendo che, chiaro, anche una meta lontanissima inizia con un piccolo passo, e quindi iniziare a muoverci da lì anziché restare chiusi nell'immobilismo. Ripeto, cioè, ascolto non è assolutamente facile, perché la paura del rischio ovviamente è alta. Hai un esercizio da consigliare? Un esercizio da consigliare è prendere un foglio di carta, sì, e scrivere da una parte le cose che ci piacciono, che ci piace fare, quindi i nostri talenti, le cose in cui siamo bravi, senza come dire, dare per scontato niente, che può essere, non so, per fare un esempio, sì, una signora che veniva ai miei corsi e che faceva la mamma, no, era fuori dal mondo del lavoro da un sacco di tempo, insomma, e voleva rientrare nel mondo del lavoro, e ha scoperto che era brava a fare torte. Non a cucinare in generale, a fare torte. Ha iniziato a fare torte di compleanno per i compagni di scuola di suo figlio, e adesso ha un piccolo business che però sta andando bene nonostante la crisi, di torte per le feste. Quindi scrivere tutte le cose in cui che siamo bravi a fare, anche quelle, okay, che ci sembrano più banali, più banali, e che non serve a nessuno, ok, e dall'altra parte scrivere le caratteristiche del nostro lavoro ideale, tutte, senza pensare a un lavoro all'inizio, sì, ma le caratteristiche: mi piace lavorare in compagnia degli altri, da solo, girare, stare fermo in un posto, all'interno, all'esterno, eccetera eccetera. E quindi avere queste liste ci aiuta a mettere giù, a fare chiarezza nella marasma dei nostri pensieri, e poi iniziare a incrociarle e vedere che cosa mi piace fare e sono bravo, e dall'altra parte iniziare a guardarsi attorno con degli occhiali di possibilità anziché di impossibilità. E quindi dove ci sono dei problemi che i miei talenti, le mie capacità potrebbero risolvere, e iniziare a incrociare queste tre, ecco, cose. Ecco, poi anche scrivere un ottimo sistema per dare forza ai pensieri, sennò quelli si perdono, sì, e ciao. Prima del GR, è una vita che cambio posto di lavoro, scrive Nino, già 7 ospedali, sono un ostetrico, ogni volta mi rimetto in gioco, sbaglio? Bravissimo. Bisogna farlo. A tra pochissimo con il riposo del guerriero dopo il GR. Il riposo del guerriero. È 11:08 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, continua il riposo del guerriero, e oggi stiamo cercando di superare i nostri limiti, ne abbiamo scoperto molti, moltissimi, anche impensati alcuni. E Lucia Giovannini è con me in questo momento in studio, ma al telefono ho Giorgio Nardone, che saluto. Giorgio, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a tutti. E Nardone è fondatore del Centro Terapia Strategica di Arezzo e ha scritto anche un volume dedicato a come superare le paure, le fobie, le ansie, le ossessioni. Tutto abbiamo messo dentro, Giorgio? Appartengono alla stessa categoria. quelli che vengono chiamati disturbi di ansia possono avere una virata fobica, vuol dire quando la paura ci porta a evitare le cose, a chiedere aiuto, a non essere in grado di gestirle, o una virata più ossessiva quando cerchiamo di controllare, ma perdiamo il controllo. Quindi per questo si chiamano disturbi fobici e ossessivi. E come faccio a, adesso non è in due minuti, è difficile dire come faccio a superare, da dove bisogna partire per cercare di superare questa ossessione? Allora, la prima regola è qualcosa che è controintuitivo, è una tecnica che noi abbiamo messo a punto già più di 25 anni fa e che è in tutti i più importanti manuali di psicologia, la tecnica della peggiore fantasia, ovvero la paura non risponde alla razionalità perché è un'emozione arcaica e parte da centri che non passano attraverso la corteccia, quindi più si cerca di razionalizzarla più se ne perde il controllo, più si fa aumentare. Mentre la tecnica che funziona è una tecnica che si basa su effetti paradossali, ovvero io devo imparare ad evocare volontariamente di più le mie paure finché queste si saturano. È l'antico stratagemma spegnere fuoco aggiungendo la legna perché soffoca l'ossigeno. Nella paura questo ha un effetto veramente straordinario, perché io posso dire a una persona che soffre di panico, soffre di fobie, di mettersi prima per mezz'ora al giorno in un luogo sicuro a immaginare tutte le peggiori fantasie, e la persona si rende conto toccando con mano, come San Tommaso, quindi che se tocco credo, sì, che più alimenta volontariamente la paura, più la mente va altrove, più reagisce trasformando la paura in coraggio. Sa, un antico scritto già nella Bibbia dai Sumeri era: la paura guardata in faccia si trasforma in coraggio, la paura evitata diventa timor panico. Dopo la mezz'ora di prima scoperta e prima esperienza si insegna alla persona durante il giorno ad andare a dare la caccia alle sue paure, 5 minuti ogni 3 ore, ovunque tu sia, chiunque ci sia, per proprio toccare ancora di più con mano che se io do la caccia ai miei fantasmi, loro non la danno a me. Finché si guida la persona a utilizzare questa tecnica ogni volta che deve affrontare qualcosa che la spaventa, in anticipo pensare a tutto quello che di peggio può accadere, così si esorcizza e si affronta la cosa. Così come quando arriva un'ansia, una paura improvvisa, invece che cercare di controllarla, alimentarla fino a creare anche in questo caso l'effetto paradosso di spegnere il fuoco aggiungendo la legna. Quindi anche, come vede brevemente, si può dire che trattare la paura patologica viola proprio il senso comune, ma è la tecnica che si è dimostrata assolutamente più efficace. Noi abbiamo nel nostro centro un tasso di 95% di casi risolti su decine di migliaia di casi venuti da dovunque, e questa è la tecnica esportata in tutto il mondo proprio perché è dimostrata empiricamente la più efficace sulla paura. Anche curiosamente poi uno pensa invece di alimentare le paure, quindi ci avrò ancora più paura, invece esatto, scatta esattamente invece il meccanismo opposto. Esatto, l'effetto paradosso. Giorgio Nardone, io ti saluto e ti ringrazio molto, avremo modo di risentirci anche perché le cose da dire sono moltissime, però intanto grazie per averci dato un inizio, per cercare un'anticipazione, una perla, hai ragione. Io vi invito a cercare su internet Centro Terapia Strategica di Arezzo per capire di cosa stiamo parlando. Grazie ancora, ciao Giorgio, buona domenica. Bene, a voi. Grazie. Lucia, allora tu mi piace perché hai annuito con tutti i nostri ospiti, perché ti sei trovata assolutamente d'accordo, e io stavo ragionando anche sul fatto, Giorgio dice, quando la tua mente pensa una cosa e poi l'altra parte è libera di essere qualcos'altro, no? E tu mi stavi facendo un esempio straordinario con un gioco, tra virgolette. Sì, sì, un'esperienza che è quella del labirinto, ne stavamo parlando infatti adesso, e che ho tenuto tra l'altro ieri pomeriggio qua a Milano, e tengo insomma regolarmente ogni tot di mesi un po' in giro per l'Italia, adesso anche in azienda sto iniziando a portarlo nei miei corsi in azienda, ed è un'antica pratica quella di camminare il labirinto. Io sono l'unica facilitatrice tra l'altro in Italia, la responsabile per l'Europa di questa del centro del movimento del labirinto, ed è proprio mentre si cammina il labirinto, che è un tappeto che ho fatto fare in America da un esperto di geometria sacra, mentre la nostra parte razionale è impegnata a seguire questo percorso, la parte creativa finalmente può aprirsi. Ecco, cosa succede? Allora, prima di cominciare questo cammino, che deve essere ragionato, giusto? Perché altrimenti non si arriva al centro e all'uscita del labirinto. Si segue un percorso. E quindi cosa succede? Prima di entrare io mi pongo una domanda. Sì, io mi pongo una domanda che può essere relativa al lavoro, alla vita personale, segreta, personale, non devo comunicarla, personale, e poi si cammina questo labirinto, si arriva al centro, ci si può fermare al centro, il centro è il momento in cui si riceve in genere l'intuizione, e poi si ritorna, appunto, che è il momento dell'integrazione, insomma. E mentre percorrono il labirinto, la maggior parte delle persone comprende meglio come percorrere la propria vita, quindi una risposta alla propria domanda. Sì. Ecco, tu stessa forse non ci credevi all'inizio, poi invece hai visto che funziona. Sì, perché ovviamente la mia parte razionale diceva no, come ma cosa questa roba, dicendo? Cosa stiamo dicendo? E ormai ho visto, insomma, con centinaia, forse migliaia di persone che ho guidato attraverso il labirinto, che invece questa cosa funziona. Ecco, potete farlo anche voi, praticamente, non con le gambe ma con le dita, si può seguire il labirinto con il dito, ma funziona uguale, perché il cervello comunque è impegnato a fare un percorso, una parte del cervello, l'altra invece vi dà l'opportunità. Sì, è anche un'ottima tecnica con il dito, un'ottima tecnica quick, molto veloce, antistress, nel senso ci ricentra. E si può scaricare dal mio sito, dalla pagina risorse del mio sito. Ecco, ve lo ricordo, il sito è luciagiovannini.com. Ci sono molte risorse gratuite che vi permetteranno di fare dei test, capire di voi delle cose, affrontare determinati momenti della vostra vita. C'è anche, dicevi, il labirinto da scaricare, stampare, percorrere con le dita. E per quanto riguarda invece il libro Crea il lavoro che vuoi, c'è una piccola chicca, nel senso che il libro in realtà ha un costo solo simbolico. Sì, di 1,99 euro, ed è scaricabile su Amazon, insomma su tutti i store online. E il primo capitolo è anche scaricabile gratuitamente sempre sulla pagina risorse del mio sito, ed è anche scaricabile il workbook, quindi tutti gli esercizi gratuitamente sul mio sito. E l'idea di metterlo proprio a un costo così basso è proprio per così renderlo disponibile per tutti. Ecco, perché c'è un momento così difficile per tutti, magari cerchiamo di inventarci qualcosa e di aprire un'esperienza migliore domani. Speriamo che qualche ascoltatore riesca a far tesoro delle parole che abbiamo usato oggi. Ti ringrazio molto per essere stata nostra ospite. Grazie Lucia, Stefano. Davvero. Buon ritorno a casa, gli aggiornamenti sul traffico e poi senti chi parla con Francesca Dragotto. Il riposo del guerriero. È il momento del nostro senti chi parla, la nostra glottologa Francesca Dragotto. Senti chi parla. Ciao Francesca, buona domenica. Buona domenica a Stefano e a tutti. Allora, cominciamo con Guccini. Allora, leggo da Corriere.it, il titolo di recita così: Guccini endorsa Bersani. È concreto, l'uomo giusto. Io non ho capito niente. Allora, faccio una piccolissima premessa. In attesa dello scioglimento della prognosi del febbricitante PDL, dalla quale potrebbero conseguire l'indizione di elezioni primarie o la ridiscesa in campo del sempiterno Berlusconi, lo dico perché in entrambi i casi saremmo qui a commentare, senti chi parla oggi diventerà guarda come scrivi. Quello che infatti faremo, lo hai detto tu stesso, è presentare con spirito critico alcuni titoli di articoli giornalistici scelti tra tantissimi che difficilmente potrebbero passare inosservati a chi si appresti alla lettura di un quotidiano. Il primo che giustamente hai preso in esame è Guccini endorsa Bersani. Così recitava un titolo del Corriere della Sera di una manciata di giorni fa. Spicca, anche per ragioni di posizione, l'orribile endorsa, probabilmente preferito ad altre soluzioni perché ritenuto di maggior presa e brio. Ora, che sull'orribile neologismo pesi una chiara opacità che ne smorza l'efficacia, ammesso che in principio ne avesse solo perché è nuovo e solo perché esterofilo, è chiaro per almeno tre ordini di ragioni. Innanzitutto, senza la frase successiva, che tu infatti hai letto, una frase che funge da catenaccio, non si capirebbe il significato del titolo. In secondo ci sono le virgolette, per chi lo leggerà appunto la cosa sarà chiara, virgolette che segnalano il distacco da qualcosa di noto, dalla norma. Terzo, ma non ultimo, endorsa o altre forme del verbo derivato dal nome endorsement, non, che ora spiegherò, non compaiono nell'articolo a cui il titolo fa riferimento il titolo, per cui esattamente. Appare solo lì, endorsa, e tu dici ma cosa significa? A parte che endorsement già è una parola difficile, cioè, esatto, neanche quando studi inglese la conosci, capito? Sì, infatti C'è una familiarità che viene spacciata appunto per questo termine, che però è una familiarità soltanto di facciata. Quanto endorsement, che è alla base di questo verbo italiano endorsare, perché appunto il fatto di averci costruito un verbo della prima coniugazione ci fa dire che endorsare ci vuole essere spacciato come parola italiana, va detto che si tratta di un termine che è impiegato in questioni non solo di politica. Noi italiani lo abbiamo conosciuto soprattutto durante le presidenziali americane, quando ad esempio si parlava del New Yorkers endorsement di Barack Obama. E che cosa indica? Indica semplicemente l'approvazione, l'appoggio, il sostegno. In casi più tecnici indica l'assegno che viene girato oppure la multa che viene comminata ad esempio all'automobilista che ha corso troppo. Per canali paralleli in italiano, ma anche in spagnolo, ad esempio è penetrato endorser, che letteralmente significa l'approvatore, per indicare ad esempio il cantante o l'artista che stipula un contratto di esclusiva con una ditta, che so, di strumenti musicali. Però ecco, quello che vorrei dire è che a dispetto di queste considerazioni il termine purtroppo sta circolando. Speriamo di no, ecco, posso dire speriamo di no, che non circoli affatto, perché endorsare a me veramente è un piccolo orrore linguistico quotidiano, dove per quotidiano indichiamo sia il fatto che fa parte o vorrebbe far parte della lingua di tutti i giorni, sia il fatto che lo troviamo negli uffici abbiamo ritornami il documento, no? Cioè questa, ne avevamo già parlato di questa cosa da return, quindi ritornami, ti restituisci. Però vabbè, andiamo avanti perché ne abbiamo di chicche oggi, questa per esempio. Nella cristoteca si prega meglio. Avvicinare i giovani alla religione grazie alla musica dance e alle luci stroboscopiche. È quello che sta facendo in Brasile il padre e DJ Zeton, convincendo decine di ragazzi. Ma non mancano le critiche dei più ortodossi. Non riesco neanche a dirlo, la cristoteca. Esatto, anche se ha fatto parlare di sé solo prima dell'estate, il termine più ancora la cosa, la cristoteca, sono sbarcati in Italia, in italiano, già da 3 anni. Neologismo ovviamente di tutt'altra pasta rispetto ad endorsa, cristoteca indica quella particolare discoteca in cui si ballano brani religiosi rivisitati in chiave techno, house, hip hop o dance. Non a caso i giornali che hanno fatto rimbalzare la notizia del prete DJ brasiliano hanno cavalcato anche una definizione, che è quella di il luogo in cui si parla con Gesù. Ora, a differenza del caso precedente, qui non mi sento di condannare il neologismo, anche perché è trasparente, almeno quando superato il primo momento. Sì, capiamo di cosa stiamo parlando, ecco, in qualche modo, però magari anche evitiamolo. Certo, vabbè. Notiziabilità a parte, però non mi pare molto probabile che il termine inizi a circolare nell'uso. Che fai Stefano sabato? Vai in cristoteca? Anche tu fai fatica a dirlo, però noti, sì. Perché ci deve essere un blocco psicologico. Allora, passiamo a un'altra frase, questa arriva da Monti. Ecco la nomofobia. Così si chiama la paura di perdere il cellulare. Nulla a che vedere con il nomos, con la legge. Qui si tratta del nomobile. La nomofobia? Sì, è di acquisizione recente, si tratta dell'adattamento di un anglismo ancora non registrato nella lessicografia ufficiale inglese, lo troviamo soltanto nelle varie tecnopedie e webpedie, altri neologismi appunto creati ad uso e consumo dei fruitori della rete. Nomofobia non ha a che vedere col nomos, ovvero la parola greca che significa consuetudine e che da molti è resa con legge. È infatti la no-mobile fobia, ovvero, queste sono le 3 parole che attraverso 2 passaggi hanno fornito la sostanza al termine, ovvero la paura di rimanere senza cellulare. A me sembra quella di rimanere senza nome, la nomofobia, sinceramente. Anche, però. Ma certo, perché il parlante italiano reinterpreta sulla base dei significati e delle parole che conosce. Ora, il fatto che si tratti però di un termine attualissimo lo comprova il titolo di un articolo, ancora una volta del Corriere di ieri, che parlava di crackberry, ovvero una parola che chiaramente è ottenuta per manipolazione dal nome di un notissimo telefonino, appunto crackberry, termine col quale si indica un'altra fobia, ovvero un'altra patologia, quella che porta al controllo ossessivo dello smartphone per verificare l'arrivo di nuovi SMS. Ecco, quella parte con la fobia lì si chiama in 1000 modi diversi, perché ogni volta ne inventano qualcuno. Però diciamo che nomofobia, anche quello lo buttiamo per adesso Ma direi anche non solo per adesso. Proviamo a fare un invito, non usiamo questi termini, soprattutto non usiamo endorsa. No, anche perché abbiamo le parole italiane. Adesso arriva Monti, scusa, avevo anticipato. Eccolo qua. la moral suasion di Monti sulla Golden Rule. Così il Premier punta sulla banda larga. La scommessa: investimenti per ridurre il digital divide esclusi dal patto di stabilità europeo. Ma l'emendamento ad hoc è già stato bocciato dal rigorismo tedesco. Allora, moral suasion, golden rule, sì. Poi digital divide. Esatto. E di cosa non stiamo... commentarlo, nel senso che, allora, qui a maggior ragione mi chiedo perché. Perché non persuasione morale? Forse perché è troppo trasparente? Perché questa tendenza all'uso, abuso, riuso di questi anglismi che sinceramente non solo non sono necessari, ma hanno come poi come controparte quella dell'allontanamento. Sì, non si capisce niente. La digital divide, magari c'è la mia madre, ma non sa di cosa sto parlando, visto che ho 70 e passa anni, magari c'è il digital divide, però detto così. Sì, detto così potrebbe essere qualunque cosa, infatti esatto. È interessante vedere come il parlante che non ha dimestichezza con le nuove tecnologie o che comunque non conosce i significati di queste parole ne ricostruisce i significati partendo dai contesti e per l'appunto può capitare di vedere storpiamenti che fanno pensare appunto a patologie, fanno pensare a cose che non c'entrano niente con l'argomento di cui si discute. E chiudiamo, abbiamo un minuto soltanto, sì. Con Vinci da Canale 5, però era una ripresa da un articolo, per cui ve lo facciamo ascoltare letto da noi. L'azienda ci ha dato fiducia e noi possiamo migliorare. Cercheremo di stare un po' più attenti al sentimento popolare, a quello che le persone chiedono. Ma non svaccheremo. Non richiameremo l'orchestra e i ballerini. Insomma, non tradiremo la nostra mission. Eccolo qua. Allora, la mission. Non svaccheremo. Esatto, in questo titolo colpisce l'affiancamento di un termine, il solito anglismo, che comunque è abbastanza penetrato, almeno in certi ambiti dell'italiano, mission, con spaccheremo, che è un termine che fa parte dei registri bassi della nostra lingua, quindi abbiamo da una parte la penetrazione del termine straniero, dall'altra la penetrazione di un termine che è parimenti estraneo alla lingua media dell'uso, appunto svaccheremo, un termine molto poco notiziabile se vogliamo continuare ad utilizzare questo. Ecco, oggettivo. Allora io voglio dire una cosa, Francesca in questo lavoro che abbiamo fatto ha sottolineato una cosa come una trentina, ecco, di parole che preferiremo non sentire mai. Vi invitiamo a raccontarci, prendere dei pezzi di giornale, degli articoli che avete letto sia su internet sia invece su carta stampata e scrivere al riposo del Guerriero su Facebook oppure con una mail a guerriero@radio24.it perché sarà parte insomma della rubrica Senti chi parla e anche Senti chi scrive e Senti cosa scrive, lo faremo sicuramente, adesso ne abbiamo scelti 5 ma ne abbiamo molti di più da raccontarvi anche nelle prossime settimane. Grazie Francesca Dragotto. Grazie a voi e permettetemi di chiudere con una battuta, questa volta non da un giornale ma dal sito delle ferrovie. Ho cercato di prenotare un biglietto e il sistema mi ha restituito, il treno è inibito. E con questo vi saluto. Giochi e videogiochi. Ho provato la vera libertà. Ho provato l'armonia e la spensieratezza di un mondo in pace. Un mondo che mi hanno portato via. Dopo Altair ed Ezio è arrivato Connor, il terzo assassino. Meglio cominciare dall'inizio, dal rapimento di Desmond Miles, mio figlio. Lui non aveva ambizione né scopo, niente piani per il futuro, ma aveva un retaggio pesante e voleva ignorarlo. La saga di Assassin's Creed prosegue con Assassin's Creed 3. Rapito dai templari dell'Abstergo e introdotto dentro l'Animus per rivivere le vicende dei suoi antenati, Desmond Miles inizialmente rivive la vita del suo antenato Altair, un assassino vissuto durante la Terza Crociata in Terra Santa nel 1191. In Assassin's Creed 2, Desmond invece rivive i panni di Ezio Auditore da Firenze e sarà proprio questo il titolo che consoliderà Assassin's Creed come uno dei migliori giochi di sempre. Ambientato nella Firenze rinascimentale del 1500, Assassin's Creed 2 si svolge durante quella che viene denominata la congiura dei pazzi. È stato preso e imprigionato. I rapitori volevano che lui li aiutasse a ritrovare una cosa. La mela. Uno dei tanti manufatti chiamati frutti dell'Eden. resti di un'antica tecnologia ora sparsi per il globo. Alcuni nascosti, altri no, ma tutti pericolosi. Erano quasi tutti nelle mani di un gruppo, la stessa gente che rapì Desmond. Sono noti come Abstergo Industries. Per noi sono i Templari, il nemico. Li combattiamo da migliaia di anni, anche di più per chi crede alla storia della loro origine, come me. Dopotutto, conosco la verità. In questo quinto capitolo, Assassin's Creed 3, ci troviamo invece in quelli che diventeranno gli Stati Uniti d'America, combattendo una guerra iniziata nel 1753 e terminata col trattato che sancì l'indipendenza dagli inglesi del 1783. Come di consueto, il protagonista principale del gioco è un antenato di Desmond Miles, il giovane Connor Kenway, un mezzosangue anglo-mohawk, anche se all'inizio del gioco si utilizza il padre di Connor, Aitan, che in seguito si rivelerà essere un templare. Per quel che vale, mi dispiace. Anche a me. Nel gioco sono presenti personaggi storici come George Washington, Benjamin Franklin, il Marchese della Lafayette, Samuel Adams e Charles Lee. E inoltre sono state ricostruite le città di Boston e New York, cercando di essere il più fedeli possibile all'ambientazione originale dell'epoca. La qualità del titolo è impressionante da un punto di vista tecnico perché è stato usato un nuovo motore grafico che è capace di mettere in scena contemporaneamente fino a 1000 personaggi differenti e questo fa in modo che nella sequenza delle grandi battaglie si abbia l'impressione di assistere davvero a un Colossal. Ma che succede qui? Capitano? Esigo un chiarimento, signor Kenway. Queste qua... Ingannavamo il tempo facendo un po' di sport, capitano. Che ne direste di ingannare il tempo facendo il vostro lavoro? Non sapevo di pagarvi per ciondola. Un nuovo sistema di motion capture ha permesso anche di rendere ancora più vera l'animazione dei personaggi digitalizzati, così che pare spesso di avere davanti agli occhi gli attori che li hanno interpretati in carne e ossa. Ora ascoltami bene, Connor. La vita non è una favola e non esiste alcun lieto fine. Che cosa dovrei fare? Ho fatto una promessa al mio popolo. Nella fuga di salvare il mondo, ragazzo, stai rischiando di distruggerlo. Come è accaduto nei capitoli precedenti, anche in Assassin's Creed 3 molte delle vicende raccontate sono storicamente accertate, perché un videogioco non sia solo un racconto fantastico, ma anche un modo per conoscere la storia e i suoi uomini. Inoltre, per chi è anche appassionato di lettura, è stato appena pubblicato il romanzo Assassin's Creed Forsaken, scritto da Oliver Bowden, dove viene raccontata tutta la storia di Connor, l'indiano nordamericano protagonista del videogioco. E presto vedremo raccontate le vicende degli assassini e dei templari anche sul grande schermo. Assassin's Creed 3, disponibile per PC e per tutte le console, è un videogioco davvero consigliato. Al di là che abbiate giocato o meno i capitoli precedenti, questo resta uno dei titoli più belli di sempre. Signori, ho in mano una chiave. E se questo libro dice il vero, ci aprirà le porte di un deposito costruito da coloro che vennero prima. Sappiamo cosa troveremo lì dentro. Conoscenza, può darsi. Forse un'arma o qualcosa di ancora ignoto, dalle origini e dallo scopo inconoscibili. Magari una di queste cose, o nessuna. Il riposo del guerriero. Le 11:36 è il momento del nostro gastronauta. Il gastronauta. Superiamo i nostri limiti, Davide Paolini. Ciao, buona domenica. Sì, c'è qualcuno che le supera come? Ma chi ha letto l'Artusi, c'è una pagina bellissima dedicata a Tugnas, che era il grande mangiatore appunto di Romagna, il quale morì dopo aver voluto battere un record di salsicce inghiottite. Quindi diciamo che anche nel cibo ci sono chi vuole superare i limiti. E tra l'altro è uscito proprio un libro in queste settimane di un bravissimo ricercatore che si chiama Pozzetto, un romagnolo, che è un libro sui grandi mangiatori romagnoli. E quindi vedi che anche sul cibo si vogliono sempre superare i propri limiti e molte volte, appunto come Tugnas, si rischia di fare una brutta fine. Anche la nostra Lucia Giovannini, tra l'altro, è romagnola. Ma perché sono mangiatori romagnoli in generale? Abbiamo sempre un po' questa idea, anche da Tognazzi, no? Che insomma, è un grande piacere. Beh, per la Tognazzi, cucina. Attenzione, è cremonese. Cremonese, sì, questo è vero, hai ragione, ho confuso. Ma sai, Tognazzi diciamo, pareva così, voleva sembrare così, ma era molto colto sul mangiare. Sì, eh? Sì. Non era, lui doveva fare delle pubblicità, ha fatto delle pubblicità che erano molto, come posso dire, da mangiatore, da inghiottitore, ma in realtà poi nella vita privata, mentre mangiava oppure mentre discuteva di cibo, era molto più sofisticato di quanto non volesse apparire. No, non è che probabilmente ci sono queste figure leggendarie, c'è un'altra che si chiama Gnaf, Lugo di Romagna, un altro personaggio incredibile, probabilmente sono state più raccolte in alcune aree rispetto ad altre, ma credo che ogni territorio abbia di questi scommettitori sul mangiare. Delle volte io vedo in televisione sono state fatte anche delle gare su chi mangiava magari più dolce, chi mangiava più pizze o d'altro, quindi sicuramente è una figura, questa qui sicuramente divertente della letteratura, appunto come può essere Tugnaz in questo capitolo dell'Artusi, ma in realtà sono un po' pericolose perché, diciamo, superare certi limiti col cibo, insomma, si raggiungono anche dei problemi diciamo sì, fisici, che sarebbe meglio evitare, ecco. Sarebbe meglio evitare, ad esempio bevitori di vino, insomma, sarebbe molto meglio evitare perché portano delle conseguenze che non sono indifferenti. Se gli parliamo della ricerca invece, nel senso della ricerca a qualcosa che prima non c'era, se la cucina ancora sta cercando nuove vie, oppure secondo te siamo arrivati a un momento in cui, come dicevi una volta, si sta ritornando al passato e non si stanno quindi sperimentando nuove vie? Ma guarda, proprio ieri ho fatto una trasmissione sul ritorno agli anni 50 sì. della cucina. Io credo che di fronte a certe tecnologie non si può tornare indietro, quelle che sono state sperimentate in cucina, sicuramente gli abbattitori di freddo o d'altro, anzi servono e servono moltissimo, però devo dire che dal punto di vista della concezione, così un ritorno alla semplicità e alla sostanza, questo ormai è inevitabile, quindi diciamo via con tutta una serie di orpelli che sono stati aggiunti al cibo oppure magari di mode momentanee, ce ne sono state tante, insomma ce ne sono tante, mentre ad esempio tutti parlano malissimo della nouvelle cuisine, no? Che ha lasciato degli strascichi. Ti stavo per citare proprio quella. Però vedi, quella, la nouvelle cuisine, bisogna fare dei distinguo importanti, ha creato sicuramente su coloro che hanno scopiazzato i grandi dei disastri generali, ma in realtà ad esempio dal punto di vista delle cotture, la nouvelle cuisine ha lasciato delle cotture straordinarie, la cottura a vapore sicuramente è un lascito della nouvelle cuisine, anche diciamo le forme nel piatto sono un lascito della nouvelle cuisine, e questi non sono stati effetti negativi, magari certe combinazioni di cibo con cibo sono andate al di là dei limiti, o le porzioni che erano al di là di ogni limite in basso, ecco. Però ma io credo che invece non sono molto d'accordo, no, vabbè. Non sono molto d'accordo perché secondo me, cioè, così puoi mangiare più e meglio, cioè puoi mangiare due o tre portate, mentre se arriviamo a delle porzioni, diciamo quelle normali che venivano fatte in passato, probabilmente. No, non dico esagerare, però è anche vero che poi per prendere tre primi, perché se no non sei sazio, poi il conto sale, però, questo voglio dire. Sul conto sale, questo è vero, però ti dico che secondo me, ecco, il bello del cibo, il bello del gusto, è quando tu hai mangiato qualcosa che ti rimane il desiderio di quel profumo, di quel sapore. Se tu lo esaudisci fino in fondo ti rimane ben poco, quindi secondo me è una sottigliezza. È vero, ti rimane ben poco anche nel portafoglio nel primo caso. Sì, però è vero, ma non esageriamo, perché io non distingo, cioè ci sono delle trattorie dove si spende il giusto e che mangi anche il giusto e magari molte volte non prendi un rinforzo perché quello che hai mangiato non ti serve, certo. È stato sufficiente e ti è rimasto quel gusto ancora da esaudire e te lo porti dietro per tanti anni. La verità è che tu ti ricordi di piatti che non ti sei abbuffato, ti ricordi di piatti invece che ne hai mangiato solamente una quantità minima e che ti è rimasto quel desiderio, se uno ci pensa bene. Quindi secondo me il limite può essere anche al limite basso, non solo al limite alto. Quindi beh, la fame è un altro discorso, cioè se rimani, ti alzi da tavola con la fame, allora beh, insomma. Però vedi, ci sono anche, come posso dire, delle esagerazioni. Non so se l'ho già raccontato, però lo racconto ancora, che un giorno ero seduto in un ristorante in Piemonte e avevo vicino un tavolo di alcune diverse persone che parlavano. A un certo punto uno ha detto, dice Gualtiero Marchesi, era i tempi d'oro di Gualtiero Marchesi, quando era emerso ed era diventato famosissimo i primi anni, una signora ha detto, beh, dice, sì, si mangia veramente poco, quando ti alzi hai voglia di una pizza e mangi le carni sanguinolenti. E io gli ho detto, scusi signora, lei quante volte ha mangiato da Gualtiero Marchesi? Mai. Quindi, ma questo è un paradosso. Per sentito vabbè. Dire. Insomma. Questo non quindi, funziona mai, il cibo per sentito questo. Dire non esiste. Purtroppo sì, è vero. Grazie Davide, buona domenica intanto. Anche a te, ciao. A tutti. Ciao, grazie, grazie. Le 11:44, direi di partire subito con il traffico, anche per ragionamenti sul traffico, perché tra poco poi ci sarà Miro per voi. Miro in 24 minuti. Bellissimo catalogo della mostra a Genova, Miro Poesie e Luce, anche biglietto d'ingresso per entrarci. Ammesso che riusciate a capire il collegamento fra la canzone che sto per farvi ascoltare e la risposta che dovete dare. In questo caso dovete parlare di una tecnica pittorica usata da Miro e la canzone che fa riferimento a questa tecnica arriva da Celentano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Massimo da Imperia, buona domenica. Ciao Massimo. Buona domenica. Ciao. Eccoci qua. Allora, cerco di aiutarti nel senso che questa canzone, la riconosciuta, no? Sì. Si chiama, si intitola Una carezza in un pugno. Carezza. Giusto. Sì. Ok, c'è un altro modo per dire il pugno. Si può dire anche in un altro modo. Ti do un pugno, ma si può dire anche ti do un... Che cosa? Ti do un... Massimo, si dice ti do un... Tecnica pittorica del... Un marrovescio. Un marrovescio... no, è un altro modo di dire. È un modo più così. Un po' più... Ti do un cazzotto. Ma no, sapevo io. L'altro ancora, eccolo lì. Anche tua moglie c'è lì dietro che sta cercando di capire. Sì, non posso aiutarti di più, Ti do un gancio. Ma no, è facile, è un altro modo di dire il pugno. Ti arriva un sul muso. Come si chiama tua moglie, Massimo? Rosalia, e devo salutare anche te, no, nel senso che anche lei sento che il suggerimento non arriva anche dal retro, dalle retrovie. Come si può dire? Te lo dirà Vitangelo dalla provincia di Bari, guarda. Ciao Massimo, grazie, mi dispiace, ciao, grazie. Vitangelo dalla provincia di Bari, ciao, com'è che si dice anche? Buona domenica anche a te. Al posto quindi del pugno si dà il? Un cartone. E allora questa tecnica come si chiama? La tecnica del cartone, no. Allora, una tecnica pittorica. Allora, la settimana scorsa una delle risposte... No, non posso dare... No, se te lo dico ti do già la risposta. Allora, su cartone... Che cosa su cartone? Dunque. Stiamo dipingendo, Sì. È una cosa che si usa anche in cucina. Guarda, ti aiuto. Ce l'hai anche in dispensa. Anche se non è la stessa cosa che si usa sul cartone, però il nome è uguale. La usi in dispensa, lì. Un altro aiuto? Per friggere, è di più. Ah, tecnica, ho capito, d'olio, però la... Devo unire un po' tutto. Sì, Tangelo. C'è anche Marisa che lì sta premendo, è da Bergamo, è lì che sta cercando. La moglie su però non... Com'è, com'è? Olio su cartone. Te l'ho detto, in poche parole te l'ho detto. Cioè, te l'ho detto. Vitangelo, per te c'è, c'è il catalogo della mostra Miro Poesia e Luce e anche il biglietto d'ingresso. Sei in provincia di Bari, non sei vicino, ovviamente, magari lo potrai dare a qualcuno o passi a Genova, non lo so. No, sì, volevo dire che sono dalla provincia di Bari, ma mi trovo per lavoro a Voghera. Quindi... Allora meglio così. Fino al 7 aprile avrai tempo. Grazie, ciao Vitangelo, grazie davvero. Complimenti per la trasmissione. A te, buona domenica. Marisa, la provincia di Bergamo, ciao Marisa. Ciao. Allora, la sapevi? Sì, mi è stata soffiata appena appena la guarda, risposta. Ti garantisco che questa che arriva è ancora più facile. Davvero? Ed è, speriamo. Sì, è un titolo di un'opera di Miro che ha a che fare con questa... mettiamo il riascolto ancora, così almeno andiamo subito al sodo della canzone, che ha a che fare con questa famosissima canzone. Non so se l'hai ballata sta canzone, magari sì, Marisa. Forse ballata no, ascoltata sicuramente. Tante volte, insomma, Figli delle Stelle. Figli delle Stelle, sì. Alan Sorrenti. Allora, Figli delle Stelle, le stelle fanno venire in mente che cosa? Tante allora, io ho passato un'ora e mezza a guardarmi le tecniche. No, e ho trascurato i titoli. Non trascurare i titoli, pensa... Allora, butto lì qualche cosa... Aspetta. Sì, aspetta, sì. Con calma, Marisa. Sì. Non buttare lì nel vento. No. Okay. Le stelle, quando sono tutte insieme, unite, cosa formano? Sì. Le... Costellazioni. Quindi serie di... Serie di costellazioni, numeri e costellazioni... Ho indovinato! Te l'ho detto che era facile. Grazie. Perché ci ho già provato tante volte con Picasso, soffiate le risposte all'ultimo momento. Invece vedi, questa volta è andata bene. Marisa, grazie. Per te il catalogo della mostra e il biglietto d'ingresso. Grazie a te. Grazie. Ciao. La ciao. Vostra trasmissione è bellissima, grazie. Grazie. Anna Rita da Roma, buona domenica. Grazie. Buona domenica anche a voi. Anna Rita, anche qua oggi facciamo le cose veramente facili, io ti aiuterò, ma anche questa Speriamo. Canzone ti garantisco che ti dice tutto. Guarda, nella canzone c'è il titolo dell'opera di Miro che vorrei sentire da te. Allora, Anna Rita, Antonello Vendite di Roma anche lui, quindi avete già un'affinità. Allora, questa... Non calcistica però. Vabbè, fa niente, questo, parliamo d'altro adesso. Vabbè. Allora, mi piace come hai voluto sottolineare questa cosa. Allora, Anna Rita, la canzone te la ricordi, no? Come Nata senti... sotto il segno dei pesci. Perfetto. Allora, è una canzone... Allora. Giusto? Sì. Ok. Sì. E la canzone di solito è interpretata da un autore? Sì, cantante. Ma un cantante, ecco. E allora, siccome questa canzone si chiama Nado sono il segno dei pesci, come si può intitolare l'opera di Miro? L'autore? L'autore, il pittore? No, hai detto il cantante. Il quindi, cantante. Quindi, come si intitola l'opera di Miro che ha a che fare con questa canzone e con i cantanti? Con i cantanti, eh? In qualche modo sì. Cantanti, dammi una mano, non sai quante volte ho chiamato. più di così. Ah, un cantante, un'opera. Cos'è? Un cantante, sì, ma chi è che canta? Secondo te, chi è il soggetto di questo quadro? La cantante? Non è la cantante, è qualcuno che canta. Chi canta? Canta il cantante? No. L'autore? Anna Rita. Ciao, no, ciao. Prego. Buona domenica. Mi dispiace, ciao, grazie a te. Ciao, Luciano da Reggio Emilia. Sono qua. Luciano, abbiamo proprio 20 secondi. Il cantautore? La cantante malinconica. Grazie, ciao Luciano. No, ciao, non è la cantante malinconica. Niente, non ce l'abbiamo fatta, cosa devo fare? Grazie davvero alla Giorgio De Luca, redazione, a Nadia Zammitti come sempre in assistenza, grazie a Carmelo Lauricella in regia e grazie a voi. Noi ci sentiamo domenica prossima, puntuali alle 10 dopo il GR con il riposo del guerriero. Una buona settimana da Stefano Gallarini.